Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Ve la ricordate Lady Chat? Lady Chat era quella signora che passava attraverso le chat o i siti specializzati per incontrare persone. Poverina, era sempre una delusione, trovava sempre uomini farlocchi, uomini che poi magari davano buca all'appuntamento, uomini che simulavano di avere libertà che in realtà non corrispondevano alla realtà, uomini che in realtà non erano uomini, uomini che si prendevano gioco di lei, ma lei poverina cercava un amore, non cercava soltanto compagnia, non cercava il fragoroso sesso di una notte di fuoco, voleva l'uomo per la vita e ancora continuava a cercarlo. Poi un giorno mi disse che aveva chiuso, basta. Aveva buttato il computer alle ortiche e aveva deciso di compiere una sorta di patto di castità digitale. Poi scomparve, non l'ho più rivista. E adesso ce l'ho davanti. Ce l'ho davanti, però leggo sempre lo stesso desiderio che forse ancora può esistere da qualche parte, forse in fondo al convoglio della vita, una persona che accetterebbe di prendersi un impegno con lei. Un impegno anche soltanto di starle vicino, tenerle la mano e farle compagnia. L'ultima volta ci siamo lasciati dicendo che tu avevi chiuso per sempre con quel mondo delle chat, degli incontri online. Ma io in realtà ho chiuso con il mondo delle chat. Ma chiuso, non hai più avuto... È soltanto che questo, sai, è uscito fuori dalle reminiscenze, una persona che comunque già conoscevo, avevo già incontrato qualche anno fa e quindi non stavo in chat, cioè ci sono stata, ma questo era un ripescaggio, ecco, chiamiamolo così. Mi ha contattata e quindi ho voglia di vederti, non vedo l'ora, sono passati diversi anni. Quant'è che non vi vedevate? 6 anni. Quindi l'avevi beccato 6 anni fa online, te l'eri sciroppato, poi verrate lasciati. Eh sì, poi ci siamo anche perché insomma la lontananza non è che ci aiuta, no? Certo. Quindi ci siamo dati questo appuntamento e ci siamo visti a metà strada. E vabbè. Diciamo che gli anni lasciano il segno, ho visto che l'hanno lasciato in lui e sicuramente lui ha visto che il segno è stato lasciato anche su di me. Beh, magari non te l'ha detto. Magari non me l'ha detto, è stato carino, io non l'ho detto a lui, però comunque va bene. Sei visti invecchiati? Vabbè, 6 anni non è che sia un po' un periodo lunghissimo, dai. Non è lungo, però sai, ad una certa età si vedono, no? Non ci abbiamo 20 anni, che sai, i 6 anni sono... scivolano via. Però dimmi una cosa perché mi interessa personalmente. A colpo d'occhio dove hai visto il suo primo segno di degrado fisico? Da cosa l'hai visto? Ma sai, il viso si nota, il viso le si rughe. Nota, sì, le rughe, anche poi il mento. Fare cioè, lifting. Poi dimmi, poi sottogola, poi anche ritirarsi mento. No, sto segnandomi così. Cosa devo fare. Poi segna, poi che cosa? E poi niente, abbiamo passato una... decadenza fisica. Vuoi, ti interessa la decadenza? Sì. Voglio dire, non era mica un decrepito, per carità. Abbiamo passato una bella giornata, tranquilla, abbiamo visto questa bella città, siamo stati a cena fuori, abbiamo bevuto del buon vino e poi siamo andati in albergo. Tieni conto che c'è questa premessa di questa voglia di vederci, di questi complimenti, sei sempre una bella donna, bla bla bla bla, e andiamo in camera d'albergo. Entriamo, una bella stanza, bella riscaldata, con della biancheria pulita, e guarda, scusami un attimo, io vado un attimo al bagno. A incipriarmi il naso. Mi porto il mio necessaire, mi lavo e poi riesco. Lui, nel frattempo, che cosa... non è... cioè non è come nei film, no? Che lui nel frattempo si spoglia, si profuma, l'alito, ma manco però cavolo. Beh, il bagno, si quanti è... bagni c'erano? Uno o due? Sì, ho capito, però nel frattempo tu no, magari... se ci vai te, devi aspettare che esci te, aspettare che sfiata un attimo la stanza, poi entra, si cambia... Non cioè... c'era bisogno, non c'era bisogno che vabbè, sfiatasse. Per dire. Vabbè, comunque, e lui invece stava... stava sul letto, sdraiato sul letto, completamente vestito, con le comprese scarpe. Le scarpe, comprese, al telefonino, con gli occhiali. E chi chiamava? No, stava messaggiando. E vabbè, dico, senti, ora a chi messaggi? Cioè, no, ma sai, io ho un sacco di amiche e di amici con i quali mi stanno comunque. Cioè, tu sei uscita in camicia da notte, come nei film. Vestita soltanto del tuo Chanel numero 5, adesso tutta proprio Chanel, no, non voglio essere, vabbè, proprio Marilyn. Comunque, vabbè, ci si avvicina. E lui è ancora vestito con le scarpe sul letto. E lui è ancora proprio, capito, allo stato così. Che schifo. Vabbè. Quindi, e lui che ha fatto poi? Quindi, niente, dico, beh, dico, smettila con questo telefonino perché insomma, ah, ma no, io devo rispondere. Dico, sì, ma durante la giornata lui ti aveva fatto capire che quella sarebbe stata una serata. Ma certo che sì. Col companatico oppure no? Ma è naturale, ma è naturale. Adesso io ci voglio stare, che la serata comunque, la giornata era stata molto piena, abbiamo fatto un sacco di chilometri, abbiamo bevuto una bottiglia di vino, ci può stare che siamo stanchi tutti, ma insomma, al di là proprio di fregartene, neanche girarti e guardare quel cavolo del telefonino, mi sembra veramente un paradosso. E tu cosa gli hai detto a quel giorno? Io gli ho detto, adesso hai rotto le scatole, adesso io dormo. No. Non mi rompe, cioè, no, io devo rispondere, vabbè, comunque, tu fai quello che ti pare e io mi sono infilata. Ma lui non si è andato a vestire, a mettersi la... Assolutamente no. Assolutamente il kimono no. Di seta, niente. È rimasto con le scarpe a letto. È rimasto con le scarpe a letto. Ma dai, tutta dopo la notte. Dopo un pochino, quando ha finito di fare le sue messaggiare e quant'altro, ha cominciato a grattarmi la schiena. Con le scarpe sempre ai piedi. Sempre. Ma forse ha dei problemi, forse col passare degli anni... ha sviluppato, sì, puzza dei piedi e non si può togliere le scarpe. Anche io ho fatto, che senti, la giacca pure c'aveva, la giacca. C'ho un pullover, la camicia, i pantaloni. Ma quando si spogliava st'uomo, secondo lui? Ah, non ne ho idea, non lo so. Il treno va. Stavo lì veramente con la mia camicettina di raso di nera, tutta carina, e lui che dice, vabbè, niente. E quindi mi e ti dava i grattini così? Ma va, per favore, dico, vedi di andartene perché adesso io mi prendo un'altra stanza e me ne vado. E quindi lui lì, vabbè, si è girato, poi si è anche addormentato, sempre vestito, che russava pure, e poi finalmente evidentemente si è alzato perché poi ha acceso la luce, si è messo a posto le sue cose e poi è andato al bagno, ha fatto i suoi comodi e poi è tornato a letto e abbiamo dormito. Alla mattina dopo... Lui cosa si era messo? Un pigiamino che c'aveva? No, l'ho guardato, non mi interessava la cosa. Beh dai, l'avrei sentito, muore. Non mi sono girata, penso che aveva una... Ah sì, perché poi la mattina dopo l'ho visto. Com'era? Una t-shirt con un paio di slip... Tra l'altro anche lì, sì, perché poi tra l'altro... Anche con le mutande vecchie, scusa. Dai, ma insomma, almeno un paio di mutandine di cotone. Con l'elastico slabbrato, Con lo scoloritura davanti. Chissà quante volte... Di che colore erano? Dovevano essere bianche in origine, magari. Con erano la sgommata? Bianche. No, vabbè, dai. Comunque. E quindi, vabbè, gli do un'ultima possibilità. Mi alzo, vado al bagno e poi ritorno. Dico, se questo, poco, mi chiede scusa... Guarda che è andata la serata, è andata così, ero stanco. Ma ci sta tutta, basta che tu parli, no? Vabbè, tu approfittavi dell'effetto mattina, ma che in effetti sì, dai. Non è indifferente. A una certa età poi. Ma neanche quello è valso, no? Quindi lui si è alzato, hai fatto con la doccia? Dico sì, ho già fatto. Allora entro io, posso, figurati, il bagno è tutto tuo. Un po' sta a casa sua, cioè non, vabbè. Assolutamente, quindi io mi sono alzata, ho approfittato che lui se ne stava nel bagno, mi sono presa tutte quante le mie cose e me ne sono andata. L'hai lasciato sotto la doccia solo? Sì, hai sono scesa bene. Giù. Ma devi andartene prima, secondo me, dai. Io non voglio muovermi di notte perché ho paura, non voglio prendere il taxi di notte, cioè due... quindi sono andata giù nella hall e mi sono fatta chiamare un taxi dalla signora e gli ho lasciato un biglietto, ti lascio al tuo telefonino, ciao, e quindi ho pregato la signora che magari gliela desse quando lui fosse uscito e io mi sono fatta accompagnare alla stazione, da lì ho aspettato il treno e bla bla bla, non l'ho più sentito, non l'ho più sentito. Certo che uomo triste. Che uomo triste. Ma io non capisco uomo... l'investimento. Scusa, io non capisco l'investimento. Vi siete visti a metà strada. Ti ha portato a cena. Avete bevuto. Ci ha provato per tutta la sera. Mi sembra di aver capito, no? Certo, assolutamente sì. Entri in camera così. Se non gli piacevi, poteva dirlo prima. Non lo so. dire, guarda. Ma senti, questi uomini di 60 anni, no? Che vogliono fare gli adolescenti, no? Cioè, sono patetici. Che non riescono. Io mi immaginavo, cioè, lui si è inforcato gli occhiali, quelli da vista, e si è messo a digitare su sta tastiera, che poi sicuramente ce l'ha avuto anche problemi col T9 e non riusciva neanche a formare delle frasi di senso compiuto. Ma è patetico. No, quella, guarda, io ti dico, da uomo sessantenne, patetico anche io, se vuoi. Il telefonino era la scusa perché non gli andava ad affrontare la serata, secondo me. O aveva lasciato le pilloline a casa. Può essere. Può darsi pure, ma ci sta, ma voglio dire, ma non c'aveva una certa confidenza, bastava dirle le cose. Cioè. Poteva dire, beh, sai, non è facile dirlo. Ha lasciato le pilloline a casa, dice adesso come faccio. Allora, a questo punto, meglio che piuttosto fare la figura di quello che non è all'altezza, di fare il disinteressato e guardo il telefono. Ma che tristezza. O se no, sperava. Era abituato male, che fossi tu a fare i primi passi, dovevi andare lì, fare la geisha, spogliarlo. Ma se stava al telefonino, anche, cioè, anche se avessi voluto, cioè non c'era proprio la situazione adatta, perché cioè, non è che ti posso saltare addosso vestito, col pullover e le scarpe. Ma guarda, il fatto che tu non gli piacessi mi sembra stupido, perché fino a 10 minuti prima bastava dire prendiamo due stanze. No, guarda, questo assolutamente, questo è fuori discussione. Quindi cosa può essere stato? No, veramente, me lo sto domandando, secondo te. Ma che poi io sono andata poi, cioè ho capito che poi lui durante quel quarto d'ora, quella mezz'ora, ha mandato dei messaggi, ha messo dei post su Facebook. Dicendo anche dove si trovava, magari. No, però ecco, relativi, che ne so, a Fidel Castro che è morto, piuttosto che... Ah, vedi, roba. Queste cose qua. Queste capito? Cose di cui diciamo il mondo veramente sente la mancanza. Che il signor X ci dica anche il suo parere sulla morte di Fidel Castro. Il tuo parere che poi era un dittatore o quant'altro. Cioè, sì, ma l'ho provato a giustificare. In qualche maniera si è giustificato. Che il suo comportamento sia irrituale, se ne è reso conto. Si è giustificato in qualche maniera. Ma assolutamente no, ti sto dicendo, io un'ultima chance gliel'ho data. Alla mattina esco e vediamo un po' che cosa dice. Ma figuriamo, ma neanche una sorta, non dico di scusa, ma mezze parole, no, che cosa facciamo? Con ste mutandine scolorite, con l'elastico. Con ste mutandine lisse slabrate. Che non si potevano guardare. Quindi lui non si era manco preparato alla notte di fuoco, scusa. Perché andare anche lui, che ne so, in una bancarella di un cingalese per strada e comprare sì, delle mutande nuove, poteva farlo. No, non ci tengo, vedi, secondo me no, ormai sono talmente convinti che ci siano tante di quelle donne, cioè c'è veramente tanta ma qualcuno, risorsa, no? Qualcuno glielo fa credere, però, scusa, se mutanda qualcuno slabrata... glielo fa credere, se no non si comporterebbero ma così. Ma se mutanda slabrata si può permettere di buttare via, tra l'altro, scusa, ma ha avuto ha fatto un investimento in questo? Certo, ha speso, perché ha fatto dei parecchi chilometri con la macchina, ristorante, albergo, il parcheggio, ristorante, l'albergo, quindi soldi, cioè, ben spesi, perché è stato vicino a te. Ma chi gliel'ha fatto fare? Ah, non lo so. Poi a cena mi diceva pure: è stata una piacevole giornata, sto bene a cena con te. Ma poi non si porta, scusa, non si porta una donna adulta con cui hai già avuto una storia, quindi non c'è nemmeno il dubbio. Fuori a cena, nella stessa stanza e tutto, ma è chiaro che è andata a fare l'amore, sennò che ci vai a fare? Sì, io non è che avevo delle grandi pretese, non so. Ma dire... almeno state insieme, avete un po' di intimità, vi abbracciate, parlate della vostra. No, ho il telefonino, cioè io non ho parole. Beh, non un ho disprezzo, parole. Disprezzo. Ma io non vedevo l'ora di incontrarti per raccontarti questa cosa paradossale. Non vedevo l'ora. No, mi conferma purtroppo a me un'idea. Cioè, si comporta con una persona con cui si sta insieme da 20 anni. Appunto. Che vai a fare un viaggio, ognuno fa le cose sue, tranquillo. Ognuno fa le cose sue, dai, giriamoci di schiena e ognuno si... Sì, ma che non c'è niente di strano a farlo con persone che già frequenti da tanto tempo. Ma quello era un momento particolare, poi il ritorno, pensa che bello. È bellissimo ritrovarsi dopo tanti anni con una persona. Ma infatti, ma queste cose sono state ribadite, sono state dette, che piacere che mi fa. Ma non t'ha più cercato, vabbè, le cose si dicono, se ne dicono. No. Assolutamente no. Se fosse stato in buona fede, 5 secondi dopo essersi accorto che è andata via, ti cercare, dice guarda, hai capito male, scusami, infatti, ho avuto un problema, niente. Poi non mi trovi nella stanza, ma è naturale. Ho lasciato la protesi a casa, potrei dirmi le cose. Mi si è rotta la pompetta. Ma poi mi vuoi venire a cercare? Cioè, voglio dire, non me l'aspettavo, perché assolutamente non me l'aspettavo. Ma io sono stata in stazione un'ora e mezza prima di aspettare il mio treno. E lui niente. Quindi voglio, nei film succede, no, che poi corrono, vedi la stazione, il treno che parte, no? Certo, che uomo triste. Che uomo spento, che uomo. E cosa aveva scritto su Facebook? Fidel Castro, che è morto Fidel. Sì, ha postato delle cose, cioè, e delle basta. Stupidaggini. Sì. Proprio nel momento che io stavo girata nel suo letto vicino a lui, e che lui stava è molto postando. Più interessato a dire la sua morte. Molto più interessato. Allora, cara, posso dire una cosa? chi non rischia mai non vive. Hai provato, per te è una bella premessa, ritrovare un uomo dopo 6 anni. Ma certo, c'era stata una storia. Era carino, poi comunque una bella persona, una persona simpatica. Beh, no, una persona di merda, scusa, bella persona. Lo pensavo. Adesso certo, cosa pensi? Questi presuppo che è uno stronzo. Ma lui nel frattempo aveva altre storie, tu sappia. Ma neanche ce lo siamo chiesto, perché poi questo non è una cosa che per una notte poteva averci anche 70 mogli, 80 amanti, ma che se ne frega, non importa niente. Ma poi perché l'ha voluto fare quella stazione a casa, scusa? Questo ma infatti, ma ha insistito affinché ci vedessimo, addirittura lo voleva fare la settimana prima, quindi è stato lui, quindi sai, però magari gli si è rotta la pompetta proprio quella sera lì. Può darsi pure, c'era andare. Ma mi sembrava molto disperato, capito? Mi sembrava molto tranquillo lì, che stava lì dopo aver bevuto. Vabbè, semplicemente l'età, oltre a avergli tolto qualche segno di virilità può essere, sì, non lo so, ma l'ha anche reso più cretino, non lo so, evidentemente. Non cretino, cioè, proprio, sì, una, proprio un una persona, una persona poca. Se uno non è più all'altezza, lasci perdere, se lascia a casa. Lascia perdere. Con orgoglio ritirarsi. La cosa più amara è che se io non avessi avuto questo incontro, mi sarei ricordata di questa persona in un certo modo. Brava. In un modo carino, ok? Mentre invece abbiamo rovinato un'immagine di un ricordo che era all'epoca carina. Ma per me ne poteva uscire in mille modi, parlando, poteva parlare, certo, con te. Certo, ma chi parla? Si dice, purtroppo guarda, che non c'è il parlare, c'è soltanto quel cavolo di telefono che ci mette in contatto col mondo. Vabbè, quando il mondo è lontano, quando il mondo è vicino invece non va bene più. Vabbè, cerchiamo altro. Qualche anno fa avrebbe avuto una bottiglia, avresti trovato con la bottiglia attaccata e detto, vedi, un fiore detto. Magari? Ma che gli uomini non sanno dove si acquistano i fiori. Vabbè, questo non è obbligato, si può anche vivere senza fiore, lasciamo queste cose qua, andiamo nella... Ma a me piacciono i fiori. Un'ultima cosa, cactus. Poi ti lascio, perché c'erano anche dei cioccolatini sul cuscino. E mi ha detto, hai visto i cioccolatini? Io l'ho presi, glielo ho tirati, mangiateli questi cioccolatini. Beh, quelli sono quelli che mettono le cameriere, li mettono a tutti, dai, non è una cosa romantica. È un triste cioccolatino ammuffito che ti mettono... L'unica cosa era il cioccolatino lì. Vabbè, lascia perdere. Ricorderai di lui soltanto la mutanda slabbrata e alonata. Così imparerai che l'amore delle volte è molto più insidioso e molto più malefico di quello che puoi pensare a un primo colpo d'occhio, che tutto sia facile, che basti una bottiglia, basti una stanza d'albergo per ridare vita a un amore ormai assopito, un amore del tutto putrefatto. Ciao. Quanto è vera questa cosa. Vabbè, rimani col tuo ricordo. Ciao, buon viaggio. Alla prossima. Ciao caro. Ciao. Il treno va. Ed eccola lei, la ricordate? La ragazza con il fidanzato in cogestione con un'altra donna, che però viveva lontano, e non si capiva bene se fosse lei la donna del suo uomo o fosse lei l'amante dell'uomo che avesse una donna, e lei sperava che lui lasciasse l'altra. Ma lui stava ancora assieme all'altra, ci stava ufficialmente, formalmente, beh, in questo insanabile, antico e forse anche leggermente arcaico e passato gioco di ruolo, finalmente la rincontro e voglio sapere da lei qual è stato l'esito del suo amore infelice, felice, senza speranza, amore come gli altri, affidato sempre a un filo sottilissimo. L'hai rivisto? Sì. Ma in Sicilia vi siete visti? Ci siamo visti in Sicilia, sì. A casa non lo puoi portare? No. Perché ancora non siete ufficialmente fidanzati? No, infatti. Devi farti l'anello? Certo. Beh, l'anello poi... Importante. L'importante. Sì. Gliel'hai chiesto? Sì. Che ha detto? Che ci pensa? Ma all'altra l'ha fatto l'anello? No. Quindi può farlo a te, no? Punto. Senti, ma sei più risentito con la fidanzata? Che io sappia, sì. Ah sì, allora, te l'ha confessato? Sì, no, ma lui parla apertamente, cioè ci confrontiamo sempre. Ma lo sente con sensi di colpa, cioè, guarda, oggi l'ho sentita al telefono. Sì. Quando siete assieme lei chiama mai? No. Non è mai successo? Non è mai successo, neanche messaggi, non è mai capitato. Quindi sentono poco praticamente? Sì, credo di sì, e questo è un punteggio. Lui non fa un check quotidiano, come stai, buona nottina, come va? A chi, a lei o a me? A lei. Te dopo ne parliamo. Non lo so, penso di sì. Sì? Cioè la sera lui la chiama sempre? Secondo me sì. E cosa fa? Dice vado a lavarmi i denti, cara, va di là e la chiama. Secondo me si sentono la sera, sì. Tutte le sere? Secondo me sì. Perché lui vuole essere sicuro che non giaccia con un altro. Ma secondo me glielo fa prescindere. Ma cioè, questo ho dato già per anche l'altra volta, l'ho detto. Lei chiaramente ha storie multiple a Bucarest, figurati. Quanto tempo è che sta a Bucarest? Ha un anno e mezzo. Un anno e mezzo, scusa, quanti anni ha? Lei 37. Beh, una donna di 37 anni che lavora un anno e mezzo a Bucarest, che cosa fa? Accende un cero ogni sera e dice: Madonnina mia, ti prego, fammi stare pure come sono. Ecco, no, dai. Non ci credo nemmeno. Ma è impossibile, ma giustamente. Ma lui ci crede, però. Non so se neanche lui ci crede, effettivamente. Ma lui cosa dice? Lui dice che questo rapporto è arrivato al capolinea, che non c'è più felicità e che... Scusa, che felicità può essere con una che da un anno e mezzo sta in un'altra città? Però lui dice che la distanza è un fattore relativo, che loro ci hanno provato a far funzionare le cose a distanza. Però io credo che... Eh sì, con il telecomando, scusa. No, ma io ho una mia filosofia. Sentiamo la tua teoria, che tu penso che l'abbia studiata questa vicenda, no? Uomini che siano mariti e fidanzati non vanno lasciati mai soli. Questa è la conclusione che io ho tratto. Ma nemmeno le donne sono proprio, volesse entrare nello specifico. È reciproco la cosa. Un anno e mezzo, lascio solo una persona un anno e mezzo. È reciproco. Ma nemmeno le vedove di guerra, non lo so. No, vabbè, ma lei ogni tanto viene a Roma. Ogni quanto? Più o meno una volta ogni due mesi. Beh, sempre un bel tempo, eh. Beh, abbastanza. E quella volta ogni due mesi loro stanno assieme? Sì, sì, prendono tipo un weekend, io so tutto. Cioè, nel senso, cioè, quello che te, lei viene... quel weekend è come dormire sul letto infuocato. Chiaro, è chiaro, io divento... E tu gli permetti questo? Non è permissione, è comprensione. Nel senso che se lui deve capire qual è la differenza e con chi vuole decidere di stare, è giusto anche che lui abbia i momenti con lei. Secondo me è peggio la privazione, è più giusto la concessione. Cioè, vista dall'esterno, tu sei la sua donna ufficiale e lei l'amante che viene su una volta ogni due mesi. Beh sì, diciamo, se vogliamo dare un'etichetta alla cosa, forse paradossalmente... Tu sei come, diciamo, una fidanzata molto tollerante che permette che lui ogni tanto si scapricci così, con una di passaggio. No, è una cosa transitoria, ovviamente, il patto è, non è che sia una cosa... Beh, un anno e mezzo già che dura. No, noi ci conosciamo da febbraio dell'anno scorso. Ormai comincia a essere quasi un anno. Quasi un anno. Beh, transitorio. Un anno si stabilizza un rapporto. Infatti stiamo cercando di arrivare alla fine di questo limbo. Ma tu un lout-out non gliel'hai mai dato? Sì, una volta gliel'ho dato per i miei 30 anni. E lui che ha fatto? E lui, abbiamo litigato, non ci siamo parlati. Poi lui mi ha mandato una mail lunga 5 pagine con tutto un suo... Una sua teoria. Esternazione filosofico-metafisica. Per giustificare il fatto che non era riuscito a prendere una decisione, che gli era mancato questo coraggio di cambiare la vita. Ma la decisione pare che la tua, diciamo, rivale, Susi, già l'ha presa. Il problema secondo me è questo, che forse lui credeva che lei lo avrebbe lasciato e insomma rimetteva a lei la decisione di questa. Ma lei non c'ha bisogno di lasciarlo, che importa, perché cioè, tutto sommato quando torna una volta ogni tanto a Roma gli fa piacere avere un weekend con un amico, no? No, il problema è che comunque lei ancora millanta questo titolo da fidanzata, che secondo me ormai è perso. Ma come fa uno? Ma nemmeno, non lo so, nemmeno un emigrante, non lo so. Lo ius soli. Cioè, veramente non è possibile. Come fai a pensare che... Lei dice: sono tua fidanzata. Lei in giro, sì, a me è capitato di persone in comune che casualmente li hanno incontrati in un weekend, lei si sia presentata come, cioè, questi mi veniva da ridere, scusa. Sì, infatti me l'hanno, sono venuti a raccontare, mi hanno detto: sai, abbiamo conosciuto la fidanzata, tra virgolette. E giù a ridere, scusa Nato, è giù a ridere. Sì, beh sì, poverina. Ma evidentemente lei ha bisogno, lei di dove è? Pure siciliana. Ma ecco, lei ha bisogno di uno status, quando viene in Italia ha bisogno di uno status, ha bisogno che i suoi genitori, quando la chiamano tutte le sere, dicono: hai messo i calzerotti di lana? Hai il fidanzato? Lei dice: no, il fidanzato ce l'ho a Roma, capito? Così li fa contenti. Contenti e cornuti tutti, capito? Anche i genitori. Però che ipocrisia, no? Certo, vabbè, sono tutti... Che grande l'ipocrisia mantiene in vita le persone. I genitori sono contenti. Quando gli chiederanno al paesello, dove sono? Sì, provincia di Catania. Al paesello, come sta figliuzza? Non so esattamente. Bene, e il fidanzato? Il fidanzato è a Roma, ah, bene. Che bello. E giù a ridere, come si girano tutti, corna, cosa. E va così, è una grande commedia dell'arte. Quindi i genitori sono felici, Dice, quando si sposano? Adesso, il lavoro, quando torna? Fra 20 anni ancora farà la stessa domanda. Lei, l'importante è che i genitori abbiano questa sorta di carta che c'ha il fidanzato. Lei ha il fidanzato in Italia, tranquilla. Io se fossi te alla fine me ne farei quasi una ragione, che ti cambia te? No, io... Tu sei più voluto, anche tu vuoi un fidanzato ufficiale? No, io chiaramente questa cosa a lui l'ho detta, è chiaro che questa situazione la tollero soltanto perché chiaramente capisco che è difficile procedere allo smantellamento di una storia così lunga. Ma non è lo smantellamento di tutto l'indotto? Di tutto l'indotto, il problema è quello. Lui come fa ad andare ai genitori nel famiglia, paesino di Catania? Amici... Lui dovrebbe fare di chiamare i genitori e dice, papà, mamma, io con vostra figlia non posso dire essere fidanzato, lei se sta a Bucarest da 1 anno e mezzo, non so manco quello che fa. La sera sento strani sospiri quando la chiamo, risate così, penso se questo accadrà. No, ma infatti è necessario che avvenga uno smantellamento progressivo di tutta la catena della filiera. Ma è lei che deve smontare tutto, sai? No, anche lui. Intanto anche lo status su Facebook, no? Perché partiamo anche dai social. Ah, perché ancora sono fidanzati su... Sì, sui ancora social. Sui ancora social gente? Ancora compare, impegnato con... A 37 anni. Che vergogna, infatti. Ecco, tutto questo, diciamo, e qual è l'ultimatum? Natale, beh, ecco, ci siamo. Quindi ha pochissimi giorni per decidere. Ci siamo. Poverino, azzese. Dopodiché gli ho detto che se... Perché l'altra scende per Natale. Eh sì, è chiaro. Quindi l'altra quando scenderà? Il 24? 23? No, sì, 23, 22, insomma, quella data. Sarebbero, diciamo, secondo diventiamo un triangolo a Catania. Tutti e tre a Catania? Sì. E lui con chi scende? Con te o con lei? Scende con me perché partiamo tutti e due da Roma. ma se lei arriva prima a Fiumicino? Questa cosa non lo so, non l'ho considerata. Quindi è un momento cruciale della tua vita. Un momento cruciale, ci tutto siamo. Quando avverrà questo? 23? Sì, giù di lì, intorno al 25. Allora, facciamo le ipotesi. Lei arriva a terra a Roma, devono scendere assieme. Sì. Lei deve arrivare e già sa la notizia. Ma è quello che mi auspico che faccia lui, perché insomma metterla davanti al fatto compiuto a Natale, buon Natale, non ti amo più, mi sono innamorato di un'altra, non credo che sia un fantastico regalo di Natale. Guarda che pericolosa la cosa, perché ammesso che lui glielo dica, e gli viene giù, piange, farà una scena madre, figurati. Sicuramente. Terrà sotto casa tua a strapparsi i capelli. Credo anch'io, succederà qualcosa del genere. Ma comunque quando andate giù voi liberati... tu devi affrontare la famiglia di lei. Ma di lei no, il problema sarà la famiglia di lui e per tantissimi anni. Ah, la famiglia di lui sa che lui è fidanzato con lei. Certo, sì. Quindi tu sarai una rovina famiglia. Io quindi sarò la pietra dello scandalo. E come spieghi te questa cosa? Che la vita è imprevedibile, non esistono etichette, la vita... Perché lei andrà subito a piangere dai suoceri, dai mancati suoceri. Secondo subito. Me sì. Subito. Andrà lì, si strapperà i capelli. Cercherà di agire con un'azione sugli suoceri che poi... Certo. Che io l'ho aspettato, sono stato a Bucarest in quel rigore, piena di tentazione, ho sempre resistito. Sono stata solo per lui e così dirà questo. Sì, sicuramente. E tu che fai a quel punto? Come fai a provare il contrario però? A me non interessa provare il contrario. Lei verrà con i capelli sciolti, lui... scarpe ballerine, vestita di stracci, volto macilento, niente trucco, con gli occhi lacrimosi. E come fai te? Come ti presenti? Io mi presento per quella che sono. Non ho bisogno di... Beh, sarei la carnefice di quella povera vittima. Ma qualcuno tocca fare questo ruolo. Dai, tanto sei spietata, su. Bisogna un po' esserlo. Ma tu hai mai pensato un chiarimento fra donne? No. Non ci ha proprio mai pensato? No, perché io se mi sono inserita in questa situazione perché lui mi ha aperto la porta. Le porte si aprono solo da dentro. Ma oddio, le porte sono porte girevoli di solito. Sliding doors. Ma certo, si aprono da tutte e due le parti. No. C'è uno che spinge da una parte, l'altro che c'è dall'altra. Ma io non spingevo da nessuna vabbè, direzione. Qualcuno ha spinto, sono stata, se no stavate qua. Avviluppata in questa situazione e come tale l'ho affrontata. Perché poi sono sviluppati i sentimenti. Quindi se noi ci rincontriamo in treno dopo la Befana, la tua vita comunque è cambiata. Sì. Ma sei sicura? Sì. E se ti ritrovo nella stessa situazione? No, perché io gli ho detto che a quel punto se non decide lui la prendo io la decisione e a quel punto vorrò l'oblio. Certo, poveraccio, lui sarà messo male. Perché la fidanzata vera che sei te l'avrà mollato e quindi si mangerà i gomiti. La fidanzata ufficiale se ne torna a Bucarest, chi si è visto, perché è duro stare in questa situazione di potenziale... Ma lui è l'unico che può scioglierla questa situazione, quindi... Vabbè, in bocca al lupo, non vedo l'ora di incontrarti. Ci rivediamo. Dopo la Befana. Dopo la Befana. Che porterà regali per tutti. O carbone. O carbone per te. Ciao, buon viaggio. Buon viaggio. Il treno va. Ed eccomi volutamente entrato nell'area di rischio, quella in cui la gente ti chiede risposte come se tu fossi un esperto. Vuole sapere da te quello che normalmente, difficilmente una persona può con esattezza e cognizione di causa dare come suo responso. Mi scrive una donna sposata, mi scrive come se scrivesse alla sua amica del cuore, al suo confidente, all'esperto in cose d'amore o anche semplicemente al medico specialista a cui ci si rivolge quando il marito sembra avere qualche difetto di fabbrica. Caro Gianluca, sono una donna sposata da 4 anni e credo che questi anni con mio marito siano stati felici. Ora però da qualche tempo manca qualcosa, soprattutto a letto. Senza fare troppi giri di parole, il problema è il sesso. Da ormai un anno i nostri rapporti si sono affievoliti. Lo so che non sei uno psicologo, ma è proprio il parere esplicito di un uomo sposato quello che mi serve. Francamente, ho cominciato a pensare anche che mi tradisse. 9 mesi fa, lui ha cominciato a dare lezioni di cucina. È uno chef di un certo successo. E così si è contornato di un gruppo di donne della buona borghesia, donne eleganti, sempre in tiro e palestrate e anche sposate, ma che palesemente non hanno proprio giornate troppo impegnate e mi sembrano tutte quasi in competizione tra loro. A chi riesce ad avere la maggiore approvazione da lui, pendono dalle sue labbra. Mio marito, su questo harem di belle donne che pagano per stargli vicino e carpirgli i segreti della gastronomia, ci scherza su. Ma io ho assistito al primo di questi incontri di cucina con una scusa, tanto per farmi un'idea su chi dovessi temere. E ne ho identificate almeno 3 che potrebbero, secondo me, fare avanza a mio marito o essere pronte ad accettarle. Naturalmente mi sento ridicola a fare la guardia a mio marito, a spiarlo, ma devo capire se hanno più consistenza le sue dichiarazioni o i miei dubbi e il mio intuito sui suoi comportamenti. Mia cara, che devo dirti? Ti stai dando già da sola la risposta. C'è un vecchio adagio che dice: gallina che non becca ha già beccato. Devo dire che è un po' giovane il tuo uomo per essere arrivato in quell'età in cui i sensi, naturalmente, vengono messi da parte. Uno preferisce farsi una bella mangiata, una bella dormita, guardarsi un bel film in TV. Insomma, dopo tanti anni può anche passare la voglia. Certo è che a 40 anni accada questo, mi sembra un po' singolare, a meno che non ci siano delle circostanze esterne. Tutto potrebbe essere accaduto, tutto potrebbe accadere, o semplicemente potrebbe essersi stufato di te. Questo l'hai messo in conto, il fatto che possa essersi un po' stufato. Sì, che ti ama, ti vuole bene, sta bene con te, ma non l'attizzi più. Continuo a sentirlo più distante da me e sempre troppo stanco per fare l'amore. Hai presente come fanno le donne quando non hanno alcun desiderio? Accusano stanchezza, mal di testa, stress, ogni volta c'è una scusa. E lui fa lo stesso con me. La sera non va bene perché si deve svegliare presto. Ora poi che ha anche il corso e poi lavora al ristorante anche nel fine settimana e la sera torna a casa che è uno straccio. Però anche 2 anni fa lavorava molto, eppure lo facevamo molto spesso. Dice di amarmi e di volermi come sempre. Ora so che è una domanda un po' ridicola probabilmente per te e sono andata a cercare una risposta anche in internet, dove leggo teorie alquanto strampalate. Ma confidando nel mio anonimato, ti voglio chiedere: quante volte al mese, secondo te, un 44enne desidera fare l'amore con la propria moglie? Visto che lui dice di amarmi, ok, gli voglio credere, ma qual è la soglia di allarme secondo te? E soprattutto voglio sapere come devo comportarmi, se dirglielo chiaramente che non sono soddisfatta oppure non stressarlo ulteriormente e aspettare che gli passi e che torni il desiderio. Oppure mi devo iscrivere a un corso di cucina di un altro chef e farlo incelosire. Anche questo ho pensato, ma forse non me la perdonerebbe? È bello che tu ti poni il problema se lui potrebbe mai perdonarti se tu ti lasciassi andare a derive extraconiugali. Stai qui a consumarti sul fatto e sospetti che tra un manicaretto e l'altro, fra un salto in bocca alla romana e l'altro, qualcosa salti nel piatto che ritieni in diritto di essere l'unica di poterci fare la zuppetta. Beh, che devo dirti, che ne so, di solito queste cose si fanno e non si dicono. Che vuoi dichiarare, che vuoi dire, che vuoi raccontare? Troverà sempre una scusa, se in fondo non c'ha voglia, non c'ha voglia. o gli fai tornare la voglia, ti industri, ti ingegni, fai un corso, cambi genere, cambi look, metti le lenzuola di seta, insomma, non so, che lo ubriachi, gli dai qualcosa di strano, gli proponi cose che escono fuori dalla regola, vedi se si interessa a te o semplicemente ti fai credere che anche tu hai un amante, anche tu vai a fare lezioni di cucina con affascinanti chef. Poi magari la gelosia riacquisce il desiderio, o se no arrangiati, sarà quello che sarà, ma cosa vuoi, il mondo va così, nulla è eterno. Perché deve essere eterno il tuo pallido amore con il tuo uomo che fa lo chef, che va in giro con delle signore che pendono dalle sue labbra e lui insegna a rivoltare la frittata? Trovati anche tu una frittata da rivoltare, vivrai più contenta e anche lui si farà meno problemi.